1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori, con voi, se vi siete uniti ora, come dico sempre, razza di debosciati. Qui ci sono Miriam Lucchetti e Peter Bescapè che si svegliano alle 4:30. E allora, cosa aspettate? Ho esagerato un po', a 4:30 è un po' troppo, Peter si sveglia alle 4:30. Va bene, oggi di cosa parleremo alle 8:15? Torneremo a parlare di come si può, una sorta di puntata bis rispetto a due giorni fa, come si può risparmiare per lo Stato. Avremo ospite Gustavo Piga, che è stato a capo della Consip, la centrale unica di acquisto, dove si devono rifornire per legge le pubbliche amministrazioni, e che la scorsa settimana diceva su Panorama si sprecano 30 miliardi con la mancanza di centrali uniche di acquisto. Ma avremo ospite anche Yoram Gutgeld, che è un onorevole del Partito Democratico, considerato un consigliere economico vicino a Matteo Renzi. Avremo Giorgio Cremaschi, ex sindacalista. Insomma, capire come lo Stato può dimagrire un po'. Questo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 6 novembre e i titoli sono questi. Il Sole 24 Ore apre su questo nuovo regolamento dell'economia che sta per essere messo a punto. Equitalia, così si paga in 10 anni. Per far fronte alle famiglie e alle imprese in crisi ci sarà la possibilità di pagare fino a 10 anni i debiti con Equitalia, con fino a 120 rate. Corriere della Sera, IMU, rischio seconda rata. Questo è il titolo sulla tassa. Tra 40 giorni c'è la scadenza del 16 dicembre. Il Messaggero, IMU, il rischio della seconda rata. La Stampa, il Tesoro riapre il caso IMU. Il Giornale, tasse, cose da matti. Shock Saccomanni, l'IMU può tornare a fine anno. Io l'ho scritto in maniera ironica sul mio profilo Twitter, Alino Milan, potessi pagare io l'IMU per tutti gli italiani, vi giuro lo farei pur di non sentire più questo tormentone, ma non ce la faccio, 2,5 miliardi non li ho, mi dispiace, ho i soliti 2 eurini in tasca, se lor signori vogliono. Repubblica, il PD salva la Cancellieri, e qui entriamo dunque nel caso politico del giorno. Il Fatto Quotidiano, Ligresti, raccomandai la Cancellieri a Silvio. Questo è il titolo di prima pagina. Per Libero invece, lei non cade, lui decade. Lei è Cancellieri, lui decade, Berlusconi si vota il 27 novembre. L'unità Cancellieri chiude il caso, questo è il titolo di prima pagina. Queste alcune delle aperture, ma voglio tornare sul tormentone. Non torno io perché non sono tormentato io, ma ci tornano i giornali. La vicenda delle spese pazze, l'ultima regione coinvolta è l'Emilia-Romagna. Perché, cari ascoltatori, tenete le mani strette sul volante, come sempre questo è il mio suggerimento. Se state guidando, sono usciti nuovi particolari su quelli che sono i rimborsi dei consiglieri della regione Emilia-Romagna, anche se Vasco Errani ieri è intervenuto in consiglio regionale a difendere quella che è una regione, a suo modo di dire, virtuosa anche da questo punto di vista. Ma gli ultimi rimborsi usciti, vale a dire spese loro, soldi nostri, sono su panettoni, zamponi, spumanti, vini, ma c'è anche un megafono e poi aceto balsamico, eccolo qui, spumanti e penne, panettoni e balsamico, il Natale dei consiglieri emiliani a piedi lista. Il Natale ovviamente a spese nostre. Luigi Spezia, prima pagina di Repubblica, e poi continua pagina 9. Per Natale non si può scordare nessuno. Spumante Ferrari, panettoni spediti dal PD insieme ai biglietti d'auguri, zamponi, confezioni d'aceto balsamico, parmigiano reggiano, almeno questi prodotti DOP della terra d'Emilia, distribuiti a dipendenti e simpatizzanti, 15.000 euro divisi tra PD, PDL, SEL, UDC e Lega, chi agendine, chi libri, chi bottiglie di vino, chi come SEL buoni istituzionali da spendere in libreria, Un piccolo regalo ai dipendenti, minimizzano per esempio a Sel. 15.000 euro sono una sciocchezza, certo, nel mare del mezzo milione investito in cene in 19 mesi, ma tutto è controllato e classificato, nemmeno uno scontrino è sfuggito ai finanzieri che ora stanno spulciando tra i 5 milioni e mezzo di denaro pubblico che 9 gruppi consigliari della regione Emilia-Romagna hanno fatto uscire dalle loro casse in 19 mesi. E allora ecco, i prodotti tipici sono quelli che abbondano. Andrea Pollastri ammette di aver dato un contributo di 500 euro per un rinfresco offerto a una manifestazione promozionale. In Valtidone, ottobre 2010, lo stesso Pollastri ammette l'affitto di una succursale del gruppo consigliare PDL a Piacenza, un punto di riferimento per i cittadini. E così, insomma, altre spese, anche per Libero, si faceva rimborsare lo zampone, la grande abbuffata del PD. E adesso si ironizzerà sullo zampone, anche una pagina sul Quotidiano Nazionale, rimborsi per zamponi e penne di lusso, ma Errani difende l'Emilia, è una regione virtuosa. Oh, a proposito di polemiche, invece, è emersa la polemica che coinvolge il Movimento 5 Stelle, accuse di presunta parentopoli. Ci sono soprattutto due onorevoli del Movimento 5 Stelle che sono finiti nel mirino perché hanno preso tra gli assistenti parlamentari due, come dire, non parenti, perché in un caso era il fidanzato, in un altro caso è il figlio del convivente, del compagno, però no, la figlia del compagno, però il dato di fatto è che queste assunzioni sono finite nel mirino. Amici e fidanzate assistenti, le senatrici del Movimento 5 Stelle accusate dicono serviva gente di fiducia. Emanuele Buzzi, a pagina 8 del Corriere della Sera. Vilma Moronese, senatrice campana, finita sulla graticola insieme alla senatrice leccese Barbara Lezzi. Vilma Moronese, nel mirino la scelta di assumere come assistente personale nel caso di Vilma Moronese il fidanzato. Dice la Moronese: lui si è preso un anno di aspettativa, quando scadrà non so cosa succederà, al momento non saprei scegliere qualcun altro che sappia darmi lo stesso contributo. E soprattutto aggiunge questo: ma perché è stato scelto? Ah beh, il mio fidanzato l'ho scelto per le competenze. Vabbè, insomma, soprattutto in materia ambientale. Mentre Barbara Lezzi si difende, intervistata da Tommaso Ciriaco su Repubblica, a pagina 9, lei invece ha assunto come assistente parlamentare la figlia del suo compagno. Sì, ho assunto la figlia del mio compagno, ma ora andrà via. Il contratto pare già rescisso. Collaborava con la senatrice Grillina fino a ieri, contratto sciolto, ma io non ho violato alcuna regola, dice Repubblica. Non c'è alcuna parentopoli a 5 Stelle, non ho violato il regolamento, il Senato vieta di assumere collaboratori fino al quarto grado di parentela, il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle invece non prevede limiti sull'assunzione dei collaboratori personali. Dice: guarda, è un rapporto di fiducia, questa persona che io ho con me guarda le mie mail, guarda la rendicontazione, pagava dal mio conto il mio affitto e poi si è laureata brillantemente a 22 anni, si parla tanto di ricambio generazionale, mi sembrava una buona idea. Ma così si rischia di giustificare il nepotismo, chiede Repubblica. Vale se dovesse gestire il pubblico, ma in questo caso deve gestire le mie cose. Ma è pagata con soldi pubblici, chiede Ciriaco. Ma sono assegnati per l'espletamento del mio mandato, risponde la senatrice Lezzi. Allora si dovrebbero assumere solo amici? Dipende dalle mansioni che gli si vuole dare. Ma come sono stati assunti? Come fanno i suoi colleghi? Tutti come lei? No, c'è chi ha chiamato gli amici attivisti. Nel 2006, quando eravamo allo 0, fuori dai meetup c'era diffidenza verso di noi e fra noi si creavano legami forti, si intraprendevano relazioni. Ma allora, scusi, perché ha licenziato Libera? Questo è il nome della figlia del suo compagno. Non l'ho mandata via, è stata lei che ha chiesto di andare, non voleva essere attaccata per ragioni che giudico infamanti. Insomma, queste polemiche anche sul presunto nepotismo e parentopoli all'interno del Movimento 5 Stelle. Ah, non passa giorno senza che non abbiamo la nostra pena sul tema della questione della politica e soprattutto dei costi. Vabbè, a proposito di costi, dopo la pubblicità riprendiamo, sono due le notizie come avete visto sui giornali. La prima, il tormentone IMU che riparte entro il 16 dicembre, bisogna trovare 2,5 miliardi di euro. Cari italiani, se avete a disposizione dei soldi, forniteli al Ministero del Tesoro. Ok, stavo scherzando ovviamente. E poi la seconda notizia, il caso Cancellieri, caso che pare politicamente chiuso, ma non certo senza strascichi. Tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 7:33 minuti, cari ascoltatori, pronti ancora a leggere i giornali. Come dire, le due notizie, come detto, del giorno sono quella politica, il caso Cancellieri, e quella delle tasse, le tasse, l'IMU. Il dossier IMU che riparte. Cominciamo dal caso Cancellieri. Ieri ha parlato alla Camera e al Senato. Il Ministro della Giustizia ha spiegato il perché di quelle telefonate sia alla compagna di Salvatore Ligresti il giorno dell'arresto, sia poi le telefonate per segnalare il caso di Giulia Ligresti in carcere, le sue condizioni precarie di salute. Da me nessuna pressione, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 8. Cancellieri incassa la fiducia, racconta Donatella Stasio. Quello che ha detto il ministro: mi rendo conto che alcune espressioni usate in quella telefonata possono aver ingenerato dei dubbi sul senso delle mie parole. Mi spiace sia stato così, mi rammarico di aver fatto prevalere i sentimenti sul doveroso distacco che il ruolo di ministro avrebbe forse dovuto imporre. Questo insomma è il passaggio chiave nel quale chiede anche una sorta di scusa. Non posso nascondere di essere addolorata però dall'uso che si è fatto di questa storia, di essere sinceramente rammaricata per il clamore scaturito, determinando anche per un fattore emotivo una situazione di cui mai avrei voluto essere causa. Insomma, si è scusata solo del suo modo empatico di esprimere solidarietà a una persona profondamente prostrata per l'accaduto. Per cui ci sono state queste parole equivocate, quel non è giusto il giorno dell'arresto speso al telefono con la compagna di Salvatore Ligresti, seguito dalla disponibilità per qualunque cosa. Mi dispiace, ha detto ieri Cancellieri, per queste parole, ma l'unico modo per chiarire gli equivoci è guardare i fatti. E aggiunge: dopo quel contatto non ho assunto e non avrei assunto alcuna mia iniziativa se non fossi stata raggiunta dalle informazioni dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Giulia Ligresti. Vabbè, insomma, le spiegazioni sono state queste. In qualche modo non c'è stato un voto, ci sarà un voto la prossima settimana, il voto di fiducia, racconta Fiorenza Sarzanini la giornata di Anna Maria Cancellieri. Il titolo è a pagina 3: è andata bene, ma su di me tanto fango. È una Anna Maria Cancellieri dunque che fa una giornata molto intensa, ma racconta anche Fiorenza Sarzanini: fino al voto di fiducia nessuno ancora può dire se sia finita davvero questa vicenda. Sembra che la buriana sia passata, il voto sarà settimana prossima, ma a parte alcuni distinguo, come per esempio il senatore Casson del Partito Democratico, che a pagina 3 di Repubblica viene intervistato e insiste: non convince, restano ombre su quel colloquio e questa vicenda finirà purtroppo a tarallucci e vino, perché non è stata affrontata seriamente la vera questione, cioè quella prima telefonata del 17 luglio in cui Cancellieri criticava pesantemente un provvedimento della magistratura che forse non conosceva neppure e dichiarava di mettersi a disposizione di una famiglia il cui capo stipite era già stato arrestato e condannato per gravissimi fatti di malaffare. Insomma, un Casson che dice: non mi ha convinto per niente, però diciamo che il Partito Democratico sembra abbastanza compatto. L'unica è il Movimento 5 Stelle, che è il movimento che ha presentato la mozione di sfiducia, ma ripeto, PD sembra in gran parte compatto, il PDL certamente è compatto nel dire non si deve dimettere, quindi politicamente dovrebbe farcela. Tra l'altro oggi Alessandro Sallusti in prima pagina del giornale fa quello che era già sotto traccia detto da alcuni parlamentari del partito nei giorni scorsi, cioè un paragone molto molto netto tra la vicenda Cancellieri e la vicenda Ruby. Alessandro Sallusti in prima pagina sul giornale: la sua telefonata, caro ministro Cancellieri, ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria è esattamente uguale a quella fatta da Berlusconi ai funzionari della Questura di Milano per il caso Ruby, perché, cara ministra, il soggetto della telefonata, una signora della Milano Bene nel suo caso, mentre era una squinternata marocchina in quello di Berlusconi, non conta sul piano giuridico. Se due signori lasciano la macchina in divieto di sosta, non importa che una sia una Ferrari e l'altra una Fiat 500 taroccata, per il codice stradale pari sono. Eccolo lì il paragone che, come diceva prima Maria Di Nolfi, viene usato dal centrodestra per dire: ecco, vedete perché difendiamo il caso Cancellieri, perché lo difendono, perché così vogliono far passare l'idea che Cancellieri si è comportata come ha fatto Berlusconi. Sta di fatto che oggi il Fatto Quotidiano insiste e ha questa notizia in prima pagina molto molto urlata nel titolo: Ligresti, due punti, virgolette, raccomandai la Cancellieri a Silvio. Dunque, una dichiarazione che scrive Gianni Barbacetto a pagina 3 del Fatto Quotidiano proviene da un interrogatorio. Un interrogatorio del 2012, quando il PM di Milano Luigi Orsi sentì Salvatore Ligresti. E durante uno degli interrogatori il PM gli chiese che rapporti avesse con Giancarlo Giannini, che era presidente dell'ISVAP, cioè l'autorità di controllo delle assicurazioni, aveva chiuso più di un occhio, secondo le ipotesi d'accusa, sui conti di Fonsai. E con chi parla Ligresti per dare una mano all'amico Giannini? Ligresti risponde: con Silvio Berlusconi, che in quel momento era presidente del Consiglio. A questo punto il PM si rivolge all'indagato e rivolge una domanda di questo tipo: è intervenuto in altri casi? Ci sono altre persone per cui è intervenuto? Una sorta di domanda al buio. Gli investigatori non hanno alcuna ipotesi precisa, ma a sorpresa Ligresti, di solito così silenzioso, risponde: sì, ho chiesto a Berlusconi di aiutare Anna Maria Cancellieri, che aveva un incarico a Bologna e voleva restare in quella città. Ora è tutto poi da chiarire. Questo è l'interrogatorio che fa titolare Repubblica, scusate, al Fatto Quotidiano a pagina 3, il Fatto Quotidiano: Ligresti chiamò Berlusconi, trovatele un posto in Emilia Romagna. E dunque eccolo qui l'accusa che continua a dire: Ligresti si spese personalmente da Silvio Berlusconi per parlare e per aiutare Anna Maria Cancellieri. Vabbè, chissà se questa polemica davvero si sopirà del tutto. L'altro grande tema è quello delle tasse. Per introdurlo voglio salutare Mauro Meazza, non che Mauro Meazza porti tasse, ma buongiorno, non so se sono contentissimo dell'accostamento. Non lo so, ci devi un attimo pensare. Allora, il grande tema spinoso che tu ieri anche qui hai introdotto sul Sole 24 è il tema dell'IMU. Servono 2,5 miliardi di euro entro il 16 dicembre. Io, come sempre, metto a disposizione, caro Mauro, i miei 2 eurini con cui giro in tasca. Sono un po' pochi. Si riuscirà a trovarli questi 2,5 miliardi? Allora, ieri il ministro Saccomanni, come riferiamo su Sole, ha detto: non è semplice, più il tempo passa, più, il mio professore di matematica mi diceva, il voto si abbassa se non rispondevo subito. Quindi diciamo le possibilità di trovare questi 2 miliardi e mezzo si abbassano. Come fare? Sta un po' venendo meno la fantasia anche, però è importante capire che se non usciamo da questo gorgo della seconda rata IMU non va avanti tutto il resto della legge di stabilità. E certo, e tra l'altro c'è anche questo 3% da rispettare, ma tra l'altro su come trovare i soldi oggi c'è qualche indiscrezione su qualche giornale, io tra poco la racconterò. Però a proposito di tasse, è l'apertura che mi interessa del Sole 24 Ore: c'è questa possibilità per le famiglie in crisi o comunque per chi ha i debiti con Equitalia di pagare in 10 anni e fino a 120 rate. Di cosa si tratta? Sì, guarda, è l'allungamento, la possibilità di allungare ulteriormente il periodo di rateazione dei debiti con Equitalia, che è stata prevista nel decreto del fare, che è stato fatto appunto a giugno, nell'estate scorsa, e a certe condizioni il fisco può venirti incontro e darti tempo appunto fino a 10 anni per pagare il debito. Non è una possibilità consentita a tutti, quindi invito a leggere con attenzione le 2 pagine dove ci sono anche esempi eccetera, per capire, perché bisogna comunque garantire che ci sia una solvibilità, non è una specie di dilazione di ritardo e poi si vedrà. Bisogna anche mostrare di essere in condizioni di poter sostenere comunque il debito, anche se riducendone l'impatto mese per mese, via via, con un tempo così lungo. Ovviamente in prima pagina anche il caso Cancellieri. E un'ultima segnalazione, Mauro, se la vuoi far tu. Io ho molto stato colpito da questo scontro Roma-Parigi sulla ecotassa, cioè che vuol dire? È una storia molto carina, ma sei un buon gustaio. Sempre di tasse si parla. Sì, perché sai, qui è un po' una vicenda che ci capita meno spesso. Sai, una società italiana, Autostrade, tanto andiamo verso il traffico, ha vinto la gara per fare questa applicazione di questa imposta nuova, e quindi guida un consorzio Ecomove che deve applicare questa imposta in Francia. Siccome i francesi non hanno voglia di pagare questa tassa, perché le tasse non piacciono a nessuno, neanche ai francesi, hanno, tra i motivi che stanno adducendo per non pagarla, dice ecco, e poi ci tocca pagarla a una società italiana che chiaramente non si mette in tasca l'imposta, sì, la gira al governo francese. Però tra i vari motivi dicono anche ecco, sempre così, e poi andiamo anche a pagare agli italiani. Non capisco perché questo debba essere un motivo di disdoro, però evidentemente pur di non pagare ci si attacca un po' a tutto. E vabbè, insomma, e quindi c'è questo scontro. Posso dire invece una cosa sul traffico, sul traffico, buche per strada, un tema che è importante. Nelle pagine di Norme e Tributi riferiamo che, attenzione, anche se la rete stradale è molto estesa, il comune comunque la deve mantenere come si deve, perché la Cassazione gli ha detto guardate che siete responsabili. Non è, e visto che incassano anche i soldi dalle multe, quindi dovrebbe essere… E quindi si devono preoccupare, altrimenti è loro responsabilità. Questo corregge un'interpretazione meno favorevole a chi incappava nella buca che aveva… interpretazione che era un po' prevalsa. E quindi insomma, quando ci sono le buche sapete anche con chi prendervela, cari ascoltatori. Allora ecco, Mauro, ti ringrazio, ci ritroviamo ovviamente domani. A proposito di IMU, c'è da dire che il retroscena del Messaggero a pagina 5 di Alberto Gentili è emblematico, l'atteggiamento anche di Enrico Letta, il Premier: non si riesce proprio a stare tranquilli un solo istante, non c'è pace. Questa frase è attribuita a sera a Palazzo Chigi già Enrico Letta, che non ha nascosto il disappunto per la vicenda Cancellieri, che appena si è conclusa, e che cosa si riapre? La questione dell'IMU, e cioè trovare i soldi, i 2,4 miliardi da qui al 16 dicembre per scongiurare l'aumento il pagamento della seconda rata dell'IMU, che il ministro Saccomanni ha detto insomma si possono trovare questi soldi, ma è difficile. Allora il Messaggero dice le ipotesi a pagina 3 con Luca Cifoni, quali sono: l'ipotesi più accreditata è ottenere gettito certo dalle banche attraverso un aumento dell'acconto relativo agli interessi riscossi dai clienti per conto dello Stato, ma il livello è già arrivato al 110%, i margini lì sono limitati, oppure sempre dalle banche come anticipazione a quest'anno di almeno una parte delle maggiori imposte che sarebbero pagate nel 2014 per via del nuovo regime sulla deducibilità delle svalutazioni. Quindi questa potrebbe essere un'idea. E poi si lavora anche alla rivalutazione delle quote di Banca Italia. I tempi però non sono brevi, i tempi brevi invece 40 giorni per trovare questi 2,4 miliardi, ce la faremo. Quello che è certo è, come ho detto, che io non vedrei l'ora di pagare di tasca mia, se potessi, l'IMU a tutti, pur di non parlarne più di questa cosa, ma temo che il tormentone sia già ripreso, il traffico. E a proposito di tasse, è molto interessante quello che è successo ieri a Torino, lo racconta pagina 2 La Stampa con Andrea Rossi. Dagli ambulanti di Torino una prova di rivolta fiscale, ieri mobilitati da Nicola Alessi, gli ambulanti dei mercati di Torino hanno deciso che la TARES, cioè la nuova tassa sui rifiuti, non va pagata perché è ingiusta, perché con questa crisi non ce la fanno, perché in generale non ne se ne può più, e hanno paralizzato Torino per un giorno, prima il traffico in centro, poi la stazione di Porta Susa bloccata 4 ore e mezza, hanno fermato 88 treni, hanno mandato in tilt l'alta velocità per Milano e Roma, hanno fatto arrabbiare tantissimo ovviamente i pendolari, convinti da Cesare Carbonari, leader dei pendolari, a liberare i binari per far ripartire i treni. Quindi insomma rabbia dei pendolari coinvolti loro malgrado in questa situazione, rabbia degli ambulanti di Torino che non vogliono pagare le tasse. Insomma, una situazione davvero esasperante, che ha portato a quella che racconta La Stampa e mette in prima pagina, non solo perché è successa a Torino, ma perché è una prima prova di rivolta fiscale, tra l'altro non legata a sindacati, non legata un po' da tutto, ma come dire, legata alla rabbia che si respira. Vabbè, che dire, la politica italiana, le solite questioni, si voterà il 27 la decadenza Berlusconi, si voterà il PD, la disfida sulle tessere, tutti i giorni la stessa cosa. Io allora voglio prendere un respiro di lettura leggendo quello che Domenico Quirico, inviato della Stampa, ci racconta dalla prima pagina e che proviene dal Congo. Una notizia che sarebbe positiva, e cioè la resa di un gruppo dei ribelli, Congo, la resa dei ribelli nella guerra infinita per i tesori. I ribelli M23, così definiti, si sono arresi, e Domenico Quirico con la sua solita penna sopraffina racconta quello che è la guerra qui in Kivu, regione del Congo. Le guerre qui sono legate a nomi misteriosi, alla tavola di Mendeleev. Il tantalio, per esempio, un metallo che resiste alla corrosione, lo scavano qui in queste foreste uomini disperati con la vanga, le mani impastati di sudore. E la cassiterite, chi l'ha mai sentita nominare? Serve per leghe speciali e per saldare. Anche questa si nasconde in questa terra nera come il sangue raggrumato, come il coltan, l'oro, il tungsteno. Vorresti usare la parola tragedia, ma è troppo lampante per un dolore diffuso ed eterno quanto lieve scolorimento dell'avorio con il passare del tempo. Negli spazi spesticciati e pieni di lordura delle città, lungo le colate di lava uscite dalla rabbia periodica dei vulcani, milioni di esseri umani attendono, folli di paura, al loro destino, respirando ogni giorno l'odore della morte. Nel Kivu, nel 2004, apparve un uomo di nome Nkunda, alto, sottile, in testa un largo cappello da cowboy, in mano una canna da passeggio, che nella foresta teneva in mano come un personaggio della Recherche. Era un uomo di guerra, le sue milizie, formate da Tutsi, presero Bukavu con le sue miniere. I giornalisti di tutto il mondo ciabattavano nel fango, facevano la fila massacrati dalle zanzare per raggiungerlo e intervistarlo. Un giorno Nkunda sparì e oggi marcisce in prigione in Ruanda, e nell'aprile 2012 il suo luogotenente Bosco Ntaganda, un altro Tutsi, sbucò dalla foresta e il mondo scoprì così l'M23, un nome collegato agli accordi di pace firmati col governo congolese mai rispettati. M23 occupò delle città come Goma lo scorso anno per qualche giorno, poi si è ritirato. Ora annuncia: usciamo dalla guerra. Potrebbe essere una buona notizia, ma lo stesso Domenico Quirico scrive: M23 esce di scena, sconfitto, rinnegato dai suoi padroni, Ruanda, l'Uganda, che hanno cambiato strategia, ma questo non vuol dire che scenderà la pace in questa parte del Congo. Beh, una bella pagina anche per occuparci di cose non solo italiane, ve la segnalo in prima pagina della Stampa, e poi continua pagina 15, Congo, la resa dei ribelli nella guerra infinita per i tesori. Vabbè, siamo al momento conclusivo, cari ascoltatori, il momento per alcuni più atteso, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo al momento della carta costa, e oggi stravince Libero con Alessandro Dell'Orto, che in prima pagina di Libero e poi un'intera pagina, pagina 18, si dedica al tuca tuca del prete. Ma sì, questo prete che io ho già intravisto da qualche parte, credo ovviamente da Barbara D'Urso, voglio immaginare, diventato famoso Don Bruno Maggioni, che balla i matrimoni e alla fine dei matrimoni mette su Mamma Mia dei Ricchi e Poveri, ma proprio in chiesa, lo potete vedere su YouTube, è diventato un video seriale, balla i matrimoni, il tuca tuca del prete, a messa fa il pieno di fedeli, in rete già una star, e ti fa pure Juve, ma ce le ha proprio tutte questo prete, ce le ha proprio tutte, è pure un tifoso della Juventus e dice: sono dell'anno 54, una classe di ferro, io, Miguel Bosé, Gianna Nannini e Moana Pozzi. E questo è un prete? Ma dai, su, Libero, la carta costa, giornale radio.